ad alta voce. Tommaso Ragno legge Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini. Undicesima puntata. Ma ormai io ero stufo di quei malati e quelle donne e contrariai mia madre. Non voglio andare su dalla signorina con lei. Arrivammo sotto il palazzo, a metà del monte di case, e le dissi: «Ti aspetto qui». «Che storia è questa?» gridò mia madre. Si voltò come per battermi, come una madre offesa, ma mi trovò uomo di 30 anni, non ragazzo, e quasi estraneo. E parlò, gridò: «Che scemo!» gridò. Ma vinsi io, perché veramente non volevo andare su. La ruota del viaggio si era fermata in me, ora come ora. A che scopo avrei dovuto vedere un'altra donna, o anche un altro malato? A che scopo? A che scopo per me? A che scopo per loro? Morte o immortalità, io le conoscevo. E Sicilia o mondo, era la stessa cosa. Guardai il palazzo e pensai, là dentro la donna pronta per l'ago di mia madre, e per gli occhi miei, per l'uomo. E mi rifiutai di pensarla più immortale di ogni altra, o di un malato o un morto. Mi misi a sedere su un paracarro. «Ti aspetto qui», dissi a mia madre di nuovo. Poi, aspettando, vidi venire su dalla valle un aquilone. E lo seguì con gli occhi passare sopra me, nell'alta luce. Mi chiesi perché, dopo tutto, il mondo non fosse sempre come a 7 anni, 1001 notte. Udivo le zampogne, le campane da capre e voci per la gradinata di tetti e per la valle. E fu molte volte che me lo chiesi mentre in quell'aria guardavo l'aquilone. Questo si chiama drago volante in Sicilia. Ed è in qualche modo Cina o Persia per il cielo siciliano, zaffiro, opale e geometria. E io non potevo non chiedermi, guardandolo, perché davvero la fede dei 7 anni non esistesse sempre per l'uomo. O forse sarebbe pericolosa? Uno a 7 anni ha miracoli in tutte le cose, e dalla nudità a loro, dalla donna, alla certezza di esse, come suppongo che lei, costo la nostra, là da noi. La morte c'è, ma non toglie nulla alla certezza. Non reca mai offesa allora al mondo 1001 notte dell'uomo. Ragazzo, uno non chiede che carta hai vento, ha solo bisogno di lanciare un aquilone. Esce e lo lancia ed è grido che si alza da lui, e il ragazzo lo porta per le sfere con filo lungo che non si vede. E così la sua fede consuma, celebra la certezza. Ma dopo che farebbe con la certezza? Dopo, uno conosce le offese recate al mondo, l'impietà e la servitù, l'ingiustizia tra gli uomini e la profanazione della vita terrena contro il genere umano e contro il mondo. Che farebbe allora se avesse pur sempre certezza? Che farebbe? Uno si chiede. Che farei? Che farei? Mi chiesi. E l'aquilone passò. Tolsi gli occhi dal cielo e vidi un arrotino che si era fermato dinanzi al palazzo. Tutta la strada era in pieno sole, aperta sulla valle, e l'arrotino scintillava da più punti di sé e della sua carriola, nero in faccia ai miei occhi abbagliati dalla luce. Arrota, arrota! Egli gridò alle finestre del palazzo. Stridette la sua voce, beccando vetri e sasso. E io notai che era una specie di selvaggio uccello con in testa uno di quei copricapi che si vedono per le campagne in testa agli spauracchi. «Nulla da arrotare?» gridò. Parve ora rivolgersi a me. E io lasciai il paracarro, mi avvicinai alla sua voce attraversando la strada. «Dico a voi, forestiero!» egli gridò. Era grande nelle gambe spennacchiate e sembrava in qualche modo appollaiato sul suo cavalletto, mandando la ruota avanti e indietro per prova. «Avete portato niente da arrotare in questo paese?» gridò. La ruota del viaggio ricominciava ormai a muoversi in me. Così mi frugai nelle tasche, prima in una, poi in un'altra. E mentre andavo a una terza, l'uomo continuò: «Non avete da arrotare una spada! Non avete da arrotare un cannone!» Io tirai fuori un temperino e l'uomo me lo strappò di mano, attaccò furiosamente ad arrotare e mi guardava, nero in faccia come perfumo. Gli domandai: «Non avete molto da arrotare in questo paese?» «Non molto di degno», l'arrotino rispose. E sempre mi guardava mentre le sue dita ballavano con la piccola lama tra esse nel turbinio della ruota. Ed era ridente, era giovane. Era un simpatico tipo di magro sotto il vecchio copricapo da spaventapasseri. «Non molto di degno», disse. «Non molto che valga la pena. Non molto che faccia piacere. Arroterete bene dei coltelli. Arroterete bene delle forbici», dissi io. E l'arrotino: «Coltelli, forbici. Credete che esistano ancora coltelli e forbici a questo mondo?» E io: «Avevo idea di sì. Non esistono coltelli e forbici in questo paese». Scintillavano come bianco di coltelli gli occhi dell'arrotino guardandomi, e dalla sua bocca spalancata nella faccia nera la voce scaturiva un po' rauca, di intonazione beffarda. «Né in questo paese né in altri», egli gridò. «Io giro per parecchi paesi e sono 15 o 20.000 le anime per le quali arroto, pure non vedo mai coltelli, mai forbici». Dissi io: «Ma che vi danno da arrotare se non vedete mai coltelli, mai forbici?» E l'arrotino: «Questo lo domando sempre loro. Che mi date da arrotare? Non mi date una spada, non mi date un cannone?» E li guardo in faccia, negli occhi. Vedo che quanto mi danno non può chiamarsi nemmeno chiodo. Tacque ora, smettendo anche di guardarmi, e si curvò sulla ruota, accelerò sul pedale, arrotò furiosamente in concentrazione per più di un minuto. Infine disse: «Fa piacere arrotare una vera lama. Voi potete lanciarla ed è dardo, potete impugnarla ed è pugnale. Ah, se tutti avessero sempre una vera lama!» Chiesi io: «Perché? Pensate succederebbe qualcosa?» «Oh, io avrei piacere ad arrotare sempre una vera lama», l'arrotino rispose. Tornò ad arrotare in furiosa concentrazione per qualche secondo, poi, rallentando e sottovoce, soggiunse: «Qualche volta mi sembra basterebbe che tutti avessero denti e unghie da farsi arrotare. Li arroterei loro come denti di vipera, come unghie di leopardo». Mi guardò e mi strizzò l'occhio, luccicante negli occhi e nero in faccia, e disse: dissi io, e strizzai l'occhio a lui. E lui si chinò al mio orecchio, mi parlò nell'orecchio, e io ascoltai le parole sue al mio orecchio, ridendo, e parlai nell'orecchio a lui, e fummo due che si parlavano all'orecchio, e ridevamo. Ci battevamo le mani sulle spalle. Poi l'arrotino mi diede la mia lama, affilata come strale e pugnale. E io chiesi quanto costava. Lui mi disse 40 centesimi. E io tirai fuori 4 monete, da 10 ciascuna. Gliele posai sulla mensola del suo cavalletto. Aprì un cassetto e io vidi che era diviso in 3 sezioni con monete da 20 e 10 in ognuna per la somma di forse 5 lire o 6. Dissi io: «Magra giornata, oggi. Ma lui ora non mi ascoltava. Notai che muoveva le labbra. Mormorava. Era assorto e girava le mie monete tra le dita. Il mormorio diventò a poco forte. 4 di pane, udii. 4 di vino. Poi di colpo. E l'uomo coi baffi? Più forte ricominciò. 4 di baffi, 4 di pane. E di colpo. E il vino? Più forte ancora ricominciò. 4 di vino, 4 di baffi. E di colpo. E il pane? Allora io dissi. Ma perché non mettete tutto insieme e dividete dopo? Troppo rischioso, disse l'arrotino. Qualche volta mangerei tutto, qualche volta mi berrei tutto. Si grattò la nuca e mi restituì 10 centesimi guardando il cielo. Tenete, disse. Volevo prendervi 2 soldi di più, ma Dio non vuole. Erano questi 2 soldi che facevano la confusione. Io mi rimisi in tasca ridendo i 10 centesimi e lui riportò gli occhi dal cielo sulla terra. Soddisfatto distribuì le 3 monete rimastegli nelle 3 sezioni del cassettino. 2 di pane, 2 di vino e 2 di baffi, disse. E agitò libere le mani, afferrò il suo trabicolo per le stanghe, si avviò per la strada in salita nella luce del sole che ormai finiva di tramontare. Io non esitai a seguirlo. «Andate in su», dissi. «Vengo con voi». Ma per quanto soddisfatto di aver risolto il problema, lui non era più allegro, era anzi triste, e non parlava. Camminava guardando per aria, dimenando da destra a sinistra e da sinistra a destra, il capo sotto l'antico copricapo da spaventapasseri. Ed era un poco tutto spaventapasseri, per la sua faccia nera, per gli occhi scintillanti, per la grande bocca di magro, e per la giacca rattoppata, i pantaloni laceri, le scarpacce, per gli ossuti movimenti delle lunghe gambe e dei gomiti. «Dovete scusarmi», disse d'un tratto. «Ho creduto di poterlo fare perché siete forestiero». «Oh, non è nulla», dissi io. «2 soldi più o 2 soldi di meno». E lui? «È questione che uno non sa come regolarsi coi forestieri. Vi sono forse arrotini che fanno pagare 8 soldi in altri paesi e uno rischia di danneggiarli a far pagare 6». «Non vi sembra?» Un po' rinfrancato lui e divertito io, andammo avanti in silenzio un altro pezzo di strada e il sole era tramontato. Uno scampanio scendeva dal culmine delle case. Poi l'arrotino si schiarì la gola. «È bello il mondo!» E io pure mi schiarii la gola. «Immagino», dissi. E l'arrotino, «luce, ombra, freddo, caldo, gioia, non gioia». E io, «speranza, carità». E l'arrotino, «infanzia, gioventù, vecchiaia». E io, «uomini, bambini, donne». E l'arrotino, «donne belle, donne brutte, grazia di Dio, furberia e onestà». E io, «memoria, fantasia». «Come sarebbe a dire?» l'arrotino esclamò. «Oh, niente», dissi io, «pane e vino». E l'arrotino, «salsiccia, latte, capre, maiali e vacche, topi». E io, «orsi, lupi». E l'arrotino, «uccelli, alberi e fumo, neve». E io, «malattia, guarigione, lo so, morte, immortalità e resurrezione». «Ah!» l'arrotino gridò. «Che cosa?» dissi io. «È straordinario», disse l'arrotino. «Ah, e ho, i, u, e». E io, «suppongo». E l'arrotino, «troppo male offendere il mondo». E io non dissi più nulla. Mi trovai indietro ai pensieri di prima dell'incontro con lui, di mentre passava nel cielo l'aquilone, come se lui ora fosse quell'aquilone. Lo guardavo e mi fermai. E lui pure si fermò. Mi chiese, «scusate, se uno conosce un altro che gli ha fatto molto piacere conoscere, e allora gli prende 2 soldi o 2 lire in più per un servizio che dovrebbe invece rendergli gratis, dato il molto piacere che gli fa di conoscerlo, che cosa è quest'uno? Un uomo del mondo o uno che offende il mondo?» Io mi misi a ridere, risi, ed era naturale. E lui chiese, «non è uno che offende il mondo, è del mondo, appartiene al mondo». Risi io, lievemente, poiché era naturale, e lui rise, «ah!» Si tolse il cappello e salutò. «Grazie, amico», disse, e di nuovo rise. Io di nuovo risi. E lui disse: «Uno qualche volta confonde le piccolezze del mondo con le offese al mondo». Poi ricominciò a parlarmi nell'orecchio: «Se ci fossero coltelli e forbici». E mi parlò all'orecchio un minuto o due, ma io non parlai all'orecchio suo. Ora per me era come se fosse il mio aquilone che parlava. Tommaso Ragno ha letto Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini, a cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio, regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.